sentiti così perché devo fare una visita. Ho detto chi? Ma cazzo, ci vuole impegnativa, non ci vuole impegnativa. Mi ha detto sì, te la faccio preparare, non fai altro che suono il campanello e ci si attiva direttamente l'impegnativa. Ha detto ascolta, ma posso venire lì? Perché sono un po'. non sto molto bene. No, non ci venire, cazzo, non ci venire. Allora io prendo i farmaci dello stomaco da quando abbiamo operato. Ormai non ci vado più per le ricette, mi manda i codici, fate farmacia, i due codici mi danno le medicine. Sì, anche io faccio così, ma c'ho il computer che non me ne ha fatti nulla, preferisco faccio una passeggiata, lo blocchiamo, dico, dico, mi serve questo e questo, ok, te lo faccio preparare, mi fa preparare tutto, io suono, capito, esce la infermiera e mi va direttamente la ricetta, non faccio manco fila, giusto così. Invece mia figlia con il suo medico e mia moglie con il suo medico fanno così, tramite telefonino, capito? Le manda tutto e poi lei lo trasferisce alla farmacia. Vai in farmacia ed è tutto pronto. Sì, io prima andavo perché mi preparava le ricette in infermiera, però molte volte non vuole, non potevo andarci. Allora per evitare di mandare mia moglie o mia figlia, gli ho detto ascolta, mandami il codice, farmacia che mi trovo, entro per richiamare il conto. Allora, ma alla fine è toccato uscire così, è un casino, per fare una visita a una legge del sangue devi stare una settimana a passare loro. Vai Antonio, vai. Sì, Giampiero, a ricevere l'accompagnamento, è già un anno e mezzo, figurati. Un attimo, c'è il telefono. Io devo rinnovare la patente e mi hanno detto no, che non si preoccupi, anche qui devo fare la polizia, si preoccupi, è rimandata a dicembre. Io ho detto perché? Perché ho detto io devo, no, e mi è rimandata a dicembre, se per dicembre non si può sarà rimandata a marzo. Sì, hanno anche le revisioni, io ma fortunatamente l'avevo fatta prima del Covid, quindi adesso lo farò il prossimo anno. Però mi avevano detto che appunto non c'erano problemi perché era tutto rinviato, capito? No, io a patente sono a posto, fatta prima lo stesso del Covid. E la revisione è la stessa cosa, capito? Capito mia, esce a vedere chi è che bussa al convento, pubblicità. No, io la revisione della macchina l'ho fatta ieri. Quello non c'era nessun problema. Ma la patente ha chiamato delle volte sua cosa, ad esempio. Mi ha detto, dice, ma la sua è una patente normale, non è una patente speciale, non è invalidità. No. E allora non si preoccupi. Invece mia moglie ogni 2 anni. Mia moglie ogni 2 anni, ogni anno, perché c'è un'invalidità permanente, quindi deve. Speriamo che non gliela tolgano, c'è un problema all'occhio, capito? Ci vede al 50%. A uno, all'altro vuole vede bannuta. Anche non mi conosco, però non gliel'hanno mai tolta. Molte volte gli hanno detto, però lì ha visto, però gliel'hanno sempre lasciata. Ed è anche grandezza, che intorno ai 65-66 anni. Allora la prossima la tolgo tranquillo, no, mia moglie non c'è neanche 60 anni, quindi è 58 perciò. Ancora, e vabbè, con gli occhiali mi arrangio, più e là, vabbè. L'importante non è un piega che muro. Vabbè, poi ci sta, che abbiamo la prende la macchina, sì, non esce la sassa per mia moglie, non è mai uscita, mai, assolutamente, ho sempre guidato io, lei la prende, se sta piovendo, andare a fare la spesa, se deve andare dal medico che sta piovendo, se no va a piedi perché il medico sul di loro è qua a Carbonati, lo stesso dove c'è il medico di Antonello, che è un ambulatorio associato, mentre il mio è via Pascoli, capito, quindi per forza lo scendo in moto o scendere in macchina. Ehi, è il marito di Ghio. C'era un periodo? Anche Marra, no? Sì. Gloria, è quella che vuoi fare. Ehi, vabbè, prendiamola come c'è, no? È un casino. meglio così che peggio, la roba è lo stesso. Ehi, Bacca Piazzale, Bacca Piazzale, mi ha una radiolina quello, vabbè, non ha con che problemi, non metto 4,40, cazzo, un amico ha provato a fare una disperazione, lo stava accendendo poco, e l'ha pagato a piedi, l'ha pagato a piedi, il problema è che non conviene mandarlo a gestare, cosa, quando spendi 200 euro, cazzo, no, perché se ne fanno una fanculo qui, la parte del quello di oggi, cambia tra l'altro, quello là, non c'è un cane, hai aperto, mi piazza, non ne ho voglia. Perché è una rottura in balle, sicuramente. Ancora lì, con la lente, con quello, con i piccitti, oh, salva, per carità. No, io se devo fare qualcosa di serio la mando a centro assistenza, mi sono rotto le basi. Se poi qualche cosentina che mi posso fare io, me la faccio io, se no, via, al centro assistenza, perché intanto poi sbagli, non sai dove mettere le mani, non hai l'attrezzatura, non va bene. No, io prima ne faccio il contatto, non c'erano occhiali che riuscivo a neanche quelli per vedere da vicino perché ancora la graduazione era bassa, allora allontanando da vicino voglio scendere da un grado e metti su che togli e metti a fanculo la maggior parte della roba non li posso più. Hai fatto bene, no, io per radio non ne ho mai fatto, non è che 146,80 giusto per tirare un pochino qualche trimerino, ma ce l'ho segnato, vai lì, apri, tiri e le chiudi, ma grandi riparazioni ho mai fatto, io non sono all'altezza di poterle fare, capito? So dove mettere le mani, questo è radio, ma no, pulizia così, in generale, ti ripeto, qualche trimerino da tirare su, qualche regolazione così, ma queste resistenze variabili che ci sono, ma niente di che. Niente di che, per fare le cose ci vuole la strumentazione, se non hai strumentazione è inutile che fai, questo non è, e lo giri, questo non è, e lo giri, questo non è, e lo giri, avvi in gatto la radio funziona. Sì, anche perché non è così semplice, non è che dici ma lo segno, lo rimetto com'era, perché se ti arrivi a toccare qualche cosa che ti porta di frequenza, non ci dici più a rimetterlo a posto, manco ti hai fatto il buco e ti hai messo un altro filettante. Infatti molti sono convinti che lo rimetti com'era, un par di palle, ci sono delle resistenze variabili, anche che appunto così chiamati trimmer, che basta un millimetro, ma qua sto dicendo meno, come il dentro cacciavite è già toccato, capite? È già molto induttivo, perché io ho tutta la serie, è già spostato, quindi poi se è quel trimmer che tu sei andato a toccare, così chiamato, che non si chiama trimmer, Di quella categoria di una cosa millimetrica che ti può variare, non dico la modulazione che può essere anche perché te la può far diventare anche più brutta, non bella, ma ti può spostare di frequenza e allora capite, è un casino, ecco perché ci vuole l'oscillatore, ci vuole l'analizzatore, ci vuole gli strumenti per fare queste cose, non è aprire e punire un cacciavite, ti ripeto, io apro un 140, mi devo andare a registrare leggermente l'LC perché è troppo basso, deve stare a metà della striscia rossa, vado, è quello, so che è quello, lo regolo, chiudo la radio ed è a posto, ma non funziona neanche così. Lo sai Dolce, il problema è che è nuovo, è un conto, quando sono apparecchi di queste dati, le resistenze variabili si sono seccate in quel punto, no? Quindi basta che le tocchi, magari un trimmer da 104 da 10 kg non riesce più a darti quei 10 kg perché è andato in vendita, perché vuole sostituito per un qualsiasi problema, cioè ti devi dire, difendi, e c'è rischio anche che magari sopra le menti finali ti lampi tutto. Esatto, bravissimo, perché è già successo ad uno che con questo radio qua, proprio con un 140, sai, non aveva potenza come questo, la modulazione eccetera, e gli ho detto vai, apri, vai lì, gli ho dato la sigla, e punta che c'è un induttivo, non il ferro, mettiti le cuffie e guarda se solleva la radio. Girava, no, prova a svoltare dall'altra parte, faccia al contrario, no, metto al massimo, no, e ho detto, ma dimmi una cosa, quando l'hai toccato, era un po' duro, sì, boh, l'hai fasciato. Così, perché, ripeto, loro apprezzare bene, poi il carboncino che ha variabile, si secca, si asciuga, frega, poi non rischia di non fare contatto, oppure fa contatto e invece gli dati che ne sono 100 ohm se ne dà 40, magari se ne servono 100 se ne dà 150. Esatto, io infatti sai cosa faccio prima di toccare la resistenza variabile, no, primerino, la spruzzo appena appena di quello spray per contatti, quello che però secca subito, istantaneo, ma se l'ha fatto bene, non vero, scusa. Lo lascio appena appena agire e poi lo muovo leggermente, ed è difficile che lo rompi, capito? Sì, anche io sempre, prima di toccare qualsiasi cosa, spray sempre. In alcuni apparecchi, no, sicuramente quello che volevo, quello della fisica, infatti prendevo, quando lavoravo in laboratorio, prendevo a pacchetti da 100% da Martucci. Anche io l'avevo presa una volta che mi c'era ciccato al tutto, sono andato a pruzzare e pruzzavo più, invece prendo questo da Fusaro, ho già preso altre volte, ho preso quello a secco e quello leggermente più olioso, infatti come dici tu, in certe circostanze, ad esempio sul 440 l'accordatore, mi sono accorto che era un po' troppo duro praticamente, cioè sentivo questo non lavorava bene, diciamo che praticamente quasi non funzionava. Ho detto, ma io non l'ho mai usato, sicuramente o è sporco o è inciudato. L'ho aperto, l'ho sfruttato con lo spray un pochino più olioso, l'ho lasciato agire un po' e poi ho dato un po' di colpi e già vedevo che i rulli e gli ingranaggi erano molto più veloci e più silenziosi. Poi ho preso quella grassa vasellina Singer, no? Tu lo conosci, che c'è anche la boccetta dell'olio Singer, che è fine quel grasso. Col pennellino gliel'ho passata nei rullini, negli ingranaggi, uno spettacolo alla grande. Io per quale cosa uso grasso siliconico oppure grasso a litio, che è lo stesso grasso che utilizzavo mille anni fa per imparare le meccaniche del videoregistratore. E quello spray stai dicendo? No, proprio quella tubetto che usavamo con il cotofiocco, ero girato fino a quanto intorno e con il cotofiocco si passavano, si bloccava la peluria diciamo del cotone e glielo passavo piano piano tra le rotelle e poi automaticamente quando si andava la meccanica autolubrificava. Esatto, così ho fatto io, mi si è sbloccato, ma io anni che non ho mai usato la colatore 440, anni, e poi alla fine vedi, diventano duri, non vanno, fortunatamente l'ho sbloccato ed è andato tutto bene. Vabbè, no, io proprio col pennellino, cioè quei pennellini piccoli, fini, no? Rigidi però, non quelli morbidi, quello rigido, no? Che fa dei quadri, quelli piccolini. Ho preso, bagnato, dato tutto un giro in giro all'ingranaggio, al pistoncino, e ho visto che si è sbloccato bene, molto silenzioso e funzionante. Sì, perché si blocca il pistoncino, quello il primo che c'è nel motore, si asciuga proprio lì nel motorino. Bene o male, se il motore riesce a spingere quindi si danno stesso, però si blocca soprattutto lì, nell'alberino del motore. Quello lì io sono riuscito a sbloccarlo con lo spray, perché era completamente inchiodato. L'ho sbloccato con lo spray prima, infatti ho visto che è scesa roba un po' nerognola, no, sporca, ho detto, ecco, quello lì poi l'ho fatto girare un pochino anche a vuoto, no? E poi ho messo il grasso sui ingranaggi e ho visto che aveva preso a funzionare. Io la verità non ho mai capito come ormai si scappare a HF, vediamo come si tocca la macchina, già apri un'antenna, cosa ti ripete la cosa però, no? Ma poi sono talmente meccanici, capito, non servono un cazzo. A cosa servono? A niente, infatti non l'ho mai trattato, perché io ho di linea la T230, controllo da lì i watt, manualmente posso anche accordare nel caso mi dovesse servire, ma non è in accordata, è libero, quindi uso solo il rosmetro watt, metro il commutatore d'antenna, l'accordatore non lo uso mai, infatti è nel neutro, capito? Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare. No, non c'è stato nessuno. Antone, ci sei? O c'è ancora il telefono? Antone è il telefono, vabbè, il bianco l'abbiamo lasciato, ma capi tanto. E io te l'avevo fatto l'esperienza anche che radio, no? Ciu ciu. Visto quanto male sono passate sotto mano, Questo perciò il 140 è favoloso, è fuga tanto che ho fatto un cambio con una radio, VU base, perché chiaramente c'era il costo, non aveva neanche il decimale, ho messo io il decimale, non ce la sai come si fa, ho messo il decimale, poi ho iniziato ad aprire il corpo più che resistenza variabile, lì c'è proprio un trimerino dietro lo slide, quello giallo piccolino che c'è, ma fa parte del gruppo resistenze variabili. Quello era zero completamente, l'ho tutto messo al massimo, ho provato la radio, era già al 60%, stava già andando a mio orecchio bene, ho detto ma si esce, io l'ho preso, le ho dato un'altra giratina all'LC, ci appicchia da 10 watt a 50 watt modulati, e la radio è questa. E attento che il load slider non ce l'ho al massimo, ce l'ho sotto la I, perché se lo metto al massimo è allucinante. Sì, anche io, addirittura non c'è domanda, che l'avevo anche sottoscritto, che l'avevo anche un valore più basso, quello che è stato dietro Mike, dietro lo slider, però ripeto, io se l'ho sotto la I, stare sempre conto che la decisione deve essere consapevole di come lo devi usare, no, usare per i maggi, capita poco a poco che hai una sicurezza già e te li succhi. Sì, è un grebbe, no, io lo so fare, ciò, 1,01, no, 1,1, 1,01, come mi ha fatto vedere Luca Flipper nello strumento, perché molti dicono 1,1, no, 1,1 è 1,10. Questo è 101, quindi no, ma io sono dentro, dentro proprio la striscia rossa, non arriva neanche alla fine, poco più della metà sul parlato e sul fischiato non supera la linea rossa, e quindi allineato un po' orecchio, però diciamo che orientativamente so sempre qual è il limite, capito? Io questo che ho preso da un ragazzo ma da laterale, 1, 2, 3 non è specialità accesa. Sono lì, 1, 2, 3. No. Scusa, bisogna stare attenti. Ecco, andiamo, la caramella la metta a me bocchende. Bisogna stare attenti. Se fai queste cose senza strumentazione, devi saperle fare. Cioè, devi avere quella linea dove non puoi sgarrare. Perché bisogna fare così, piano piano, non deve stare a tira e molla, piano piano, lo fai proprio giusto, perché chiaramente non hai strumentazione, quindi ti arrangi, però io la praticità di poter fare quello ce l'ho, e boh, sono liscio, bello, non mi domandare altro. Però questo qui è tanto giusto, perché detto, no, ma io l'antenna ce l'ho in macchina, anzi l'antenna ce l'hai in macchina, per stazionare ce l'hai anche con 2, 1 e 3, però cosa ce l'hai con 5 watt? Mi hai tirato la portante, mi hanno dato male, gli ha dato portante a 90, sono salite, ha fatto 4 passaggi e l'ha preso. Infatti, prima me lo voleva prendere, poi io ho detto no, non è compro neanche. poi un giorno stavo parlando con un altro amico, dice, e gli ho detto, degli apparecchi, sai, un po' del secolo, ho detto male che vada, se ha scritto altre cose e non si può rifare, lui ha chiuso come ricevitore. Aspetta un attimo, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. C'è qualcuno sul canale 10, ho visto una portante. Antonio, tu sei? Ho visto una portante 109, se vuole entrare qualcuno, aspetta, lasciamo un attimo di bianco. No, mi sono sbagliato. No, è chiaro che anche la potenza deve essere in base a... devi farla bene, altrimenti ci vogliono strumenti per farla. Io la potenza non l'ho toccata di questo, c'ho 80 watt, ho lasciato 80 watt. 80 li picchia in AM, 80 ce li ha in FM, e 80, 90 sul parlato in banda laterale, basta. Ho fatto solo LC. La radio mi interessava a me. No, non c'è che annubba, 200 watt e baffa vedda con qua, quello vicino di casa. Sì, c'è quello grande, io non c'è bisogno di mettere la 3 watt, non che l'ingresso c'è 100 watt, quindi qual è il problema? Non ce n'è problema, ho l'altro capito, quindi assolutamente. Assolutamente, con la KF c'ha 100 watt in ingresso. Infatti quando lo uso, o lo usavo perché non lo sto più usando, lo usavo sempre con 30, 40, 50 watt, mi dava sempre che 400, 500 watt in banda laterale, non si può vedere di l'AM, in AM non ho bisogno di attaccare l'amplificatore, se dovesse servire, già è dentro l'armadio. Sì, ma poi alla fine mi ha regalato in Allen, tanto. Io insomma infatti a me non me la fotte nulla, però non si sa mai che qualcuno pensi che siamo sprovvisti, io ce l'ho sempre amplificatore, se dovesse servire per fare qualche cosa lo tolgo, altrimenti non me la fotte nulla, cosa ne vai? Non fai assolutamente niente, nulla, mi puccio anche il baracchino con un altro lineare da 300 watt, quindi volendo si può attaccare anche quello per fare delle prove, ma anche quello, ma ci ho dato tutto, ho fatto una pulizia tra ieri notte e stamattina allucinante, mi sono rifacettato tutti i cavi che entrano dalla finestra, che era nuovamente uno schifo, era tutto pieno di lana, dietro, ne ho tolto tutto, ciò. Le due linee Kenwood, 2 VEU, basta, tolto tutto completamente. Passano due radio, neanche, una metà di una metà dell'altra. Che è questo? Aspetta, sono portato 107. No, io neanche la vedo qua, 107, non vorrei sia qualcuno che non sta uscendo. Si molla, sente rosette, no, non so. Avanti chi vuole entrare per Ciacciari, che è? Chi è che vuole entrare avanti? Io sono entrato. Aspetta, chi è che vuole entrare? Chi sei? Rosso sei? Francesco, dai, Francesco! Ciao, rimango all'ascolto. Francesco non arrivi a Santiago 3. Francesco arriva a Santiago 9, 7, 8, 9. Questo da fuori. Chi è che vuole entrare per Ciacciari avanti? Stava chiamando Ciacciari. Forse tu non l'hai sentito. Avanti per Ciacciari. Ciao Giuseppe, da dove stai trasmettendo? Ah, sei fuori, Fiume Santo in barca. Santiago 3 arrivi, 3, 4, non di più. Come? Non è male no. Com'è il mare? Calma piatta, vento buono, pesce in poppa. Va bene Giuseppe, siamo qua, se hai bisogno di qualcosa chiama, ok? Hai visto Giulio che non era Francesco, se non sbaglio io, se invece originale non c'è Cristo. Ciao, buonasera, ben ascoltato, avanti a tuo padre Giulio. Ciao, ben ascoltato, buonasera, abbiamo un attimino che mi stanno chiamando, un secondo. Ehi, vabbè, Francesco è molto più forte, e questo è la Santiago 3. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao di doppio ru, ciao Claudio, ciao Antonio, mi è sembrato Giulio poco fa, ben sentiti tutti quanti, dai, avanti. Se non lo dici, non te l'avrei conosciuto nessuno. Gli do avanti Gianni. Antonello Motocompa, certo, ne? Io, ciao Gianni, ben sentito. Saluto lì. Ma un amico del fiume è stato, sento Santiago 1.5, quasi 2 io. È strano, non è un segnale buono quello, da quella zona lì, dovrebbe arrivare minimo 8.5, 9, perché c'è di fronte. Non lo so, vabbè, magari è sotto fiume Santo, non so, qua era 3-4. Ho registrato, infatti giù detto Francesco, no, Francesco, Francesco arriva molto più forte. Questo è stato un po' basso. Giuseppe, l'hai sentito Antonello? Ah, ecco, sei coperto, va, sei un po' più a terra. Gianni, tu lo senti bene, sì? Sì, sì, lo sento. Ciao Giuseppe, buonasera. Non so se mi stai ascoltando. Giuseppe, l'hai sentito Gianni? Ah, per me, pescato hai. Ah, cappagappa. Beh, già sono buoni i calamari, dai. E adesso il periodo col freddo, come se ti metti dove c'è luce e ne prendi un bel... Allora va bene, dai. E loro stanno dove c'è la luce. Io se no che andavo a Calamari, a Balai vicino, lì. Ma anche se Balai vicino, lì sotto è tutto pieno, perché ci sono i lampioni che illuminano. Adesso lo bifappalo già, non fa così, ho ragione, adesso lo bifappalo. Se hai bisogno siamo qua, Giuseppe, avanti Antonio. Se vuoi pescare in viale porto, negre, bionde, russe, di tutto c'è. Ciao Antonio. Ciao. Ben sentito. Ben sistemato, dai, quella specie di microfono, che in un baracchino va bene, nell'altro invece, come l'agganci, sembra che va incontro. Perché addirittura Marco il Bibi si sentiva in pratica un secondo e mezzo usciva di radio, dopodiché sparivi e il bip spariva lo stesso dell'apparecchio. Sì, già l'ho aggiustato, ce l'ho messo da una parte e via, io faccio in fretta, se mi fa perdere la pazienza di un appo dalla base e via, ne metto un altro. E nel Galaxy va bene, non va bene in questo apparecchio, non capisco il perché si da poco tempo fa andava bene, poi di colpo come l'ho acceso, forse come è stato fermo, non lo so. A volte le commutazioni da un baracchino all'altro sono quasi precise, perché me l'ha fatta a me, nell'anno 37, col 3009 non vanno bene. E addirittura col Codex 4000 cambia tutto, cambia solo un filo, cambia. No, ma il filo, gli attacchi sono giusti. Se uscivo prima, parlavo tranquillamente prima, Antone, con il 3009 e con l'MV più 5 parlavo tranquillamente, uscivo bene. Adesso è il problema che si è presentato, capito? Ma che attacco c'è? Attacco all'an 48? Invertito. Quello del 48, però quelli fili di sopra sotto e quelli sotto sopra. Come andate, infatti io l'ho fatto, ne ho preso un altro microfono, l'ho fatto con le connessioni giuste, là. Perché quando l'ho attaccato quel microfono, Antonio, l'abbiamo regolato assieme, era una bomba, fatto l'altro giorno, lascia quel microfono sul 3009. Poi l'altro giorno ho iniziato a fare questo rifletto, siccome l'ha fatto anche a me, sull'Airbex, proprio Gianni se ne è accorto, ho fatto questa cosetta, ho limato appena appena perché mi sono accorto che toccava dove c'è il circuito saltato e quindi andava bene. Volevo fare una domanda Gianni, poi faccio entrare Antonio Riserva, ma quando l'hai smontato, hai smontato anche le quattro vitine del circuito stampato per caso tu? Io ho smontato tutto, ho anche tolto la parte che tu mi hai detto, l'ho prima morsicata con la tronchesina, quella piccola, e poi l'ho tutta rimasta bene, come mi hai detto tu di fare, ho fatto così. Perché se a me già mi ha fottuto, che anch'io... ho tolto il circuito stampato, no? Che c'ha quelle quattro vettine, siccome ho visto che c'è appena appena di gioco, invece che l'ho spostata troppo in avanti e quindi andavo a schiacciare il PTT e mi toccava lì, allora l'ho tirata tutta indietro, però il problema c'era lo stesso, allora ho tagliato quella farina che hai tagliato tu e non l'ha più fatto, sta funzionando. Io adesso va bene, ho tolto tutto, facevo troppi MB più 5 in mezzo alle balle, quindi ne ho tolto tutto, cioè i 60 e l'SM20 e basta, e adesso ho tolto tutto, se no l'avrei fatto già lo apro, vedere, ti mando la foto, perché io ho fatto quel lavoro lì e ha ripreso a funzionare perfettamente, non ho più fatto quel difetto. Ma qua c'è che era una coincidenza, se vuoi ti dica già, non lo so. Avanti, Antonio Rigè. Sì, sì, io mi stanno ascoltando ma non ho capito di cosa sto che parlando. Ciao Gianni. Ciao Antonio, no, è l'MV più 5, che nel 2009 sparisce la modulazione quando parlo, invece lo metto nel gas e va benissimo. È una cosa che non sono riuscito a capire, ho provato a metterli sciorici per contatti, tutte queste belle cose, soffiarlo, farlo, niente da fare. Io ho capito, ma adesso io sto parlando con un altro microfono, col 2009, solo con la static, e funziona, nel 2009 non va nulla. Allora vuol dire che secondo me, come diceva la differenza dell'applicazione, domanda è protezione. Che sia troppo alta la LC, dici? Molto quanto, ma è l'applicazione del microfono, dopo un po' lo manda sulla protezione, no? E quindi lo fa strappare, lo blocca. Alto, ha sempre funzionato su questo apparecchio, come non lo usavo da un po' di tempo, adesso l'ho acceso per farlo girare e mi fa questo difetto. Lo provo nel coso, te lo posso fare anche sentire, lo provo nel Galaxy e lo sparisce. Ma deve essere che la mia duga che va su, se cosa risolvo, perché sì che o lo fa uno per una cosa o per l'altra riesce a regolarti, ma quando ti fa per dire un apparecchio funziona e nell'altro no, che cosa fai? Con l'altro funzionano gli altri microfoni, funzionano tutti, ne ho provato due o tre, funziona. No, dovresti provare un altro microfono, un altro 5, sempre nel 2009, può fare anche l'altro. Ma non ce l'ho un altro, se no l'avrei provato. Che ne so, ha sempre funzionato quello lì, hai capito perché mi dà fastidio, perché è sempre andato bene, adesso l'ha fatto ultimamente. Vabbè, ma sto provando gli altri microfoni, vanno bene, ne ho provato due e vanno bene, cazzo, boh, è una cosa assurda, Ma non sono MV più 5. No, vabbè, là. Adesso ne provo un altro microfono. Claudio. Ehi, dimmi tu. Ma il portatilino ce l'hai qua, Cesco? No, io ho portatilini e non ho accesi, ce li ho, sono tutti in fila. Ce li ho accesi, c'ho quello grande acceso, ma in PMR è acceso. Ce l'hai qualche cosa in PMR? Tutto acceso qua, aspetta che c'ho quel volume, perché se no... Ehi, vado a segnare già. Aspetta. Ecco, tu sei. No, quello è altro meno. Bene. Siamo qua. Antonio, mi ascolti? Vai! Prova 1, 2, 3, lascia attaccato l'MB più 5, voglio vedere se esce. Mettendo le CNC si è messo a posto. No, sto rifacendo un po'. Guarda adesso. No, ti abbassi, ti alzi, ti abbassi. È che il mio cazzo c'ha la connessione diversa da quella, se no te l'avrete provato. Capito, io ho 3 MB più 5 e sono tutte e tre diversa connessione. Con quella connessione non ne ho io. Io comunque avrei provato innanzitutto a sentire la capsula. Tanto il mio originale, io l'ho comprato e mi ha fatto questo difetto che ci abbassava la modulazione, però io me ne sono accorto perché calcando bene forte il PTT non lo faceva, invece appoggiando il dito normalmente, no, per mantenere il PTT inserito, mi mancava la radio e quindi era proprio, non faceva bene il fine corsa, no? Non andava a fondo proprio il PTT. Io ho tagliato questa bavattura ed è perfetto, capito? Quello è un problema che ha sempre avuto, è vero che io volavo sempre un quadratino di plastica tra quello lì ho tagliato io, bravo, quello lì ho tagliato perché non mi faceva arrivare il PTT a fine corso. Sempre lo lampa che tu prevedi e non ci viene radio, nel senso che non funziona, Ma non c'è. Infatti a me quello mi fotteva, guardavo lo smitter e vedevo si muoveva, però stavo parlando con Gianni e Gianni mi ha detto se c'è sta radio. Ha detto ma catena guru, cosa può essere, cosa non può essere. Sono arrivato a scoprire questa bavattura, l'ho tolta e il microfono è perfetto. Per quello ho detto a Gianni, che non sia quello. Ma 30 anni di microfono non l'hanno mai modificato. L'ho comprato nuovo quanto la fusata, fatto arrivare con fatto nuovo, proprio solo per il DAC, per non stare a muovere, ma mi ha fatto la connessione Luca. L'ho dato a Luca che eravamo assieme, ha detto fammi, mettimi uno spinotto a 4. Me l'ha messo, connessione DAC, gli ho dato l'altro microfono, quello originale, e me l'ha fatto uguale, perfetto, senza la radio, una gannonata. Però inizialmente mi faceva questo difetto, ho eliminato questa bavattua, questo quadratino, come ho detto a Gianni, altro microfono una cannonata, esce anche molto bene. Io ti capisco, però il problema suo è che lui quel microfono non ha radio, non si deve avere l'altro. Cosa vuol dire ti dica? Io infatti gli stavo dicendo, può darsi pure che il Galaxy, essendo PTT a relay, agganci prima il 3009, non avendo il PTT a relay, agganci dopo, quindi ha bisogno di questo più spazio. Il Galaxy non ce l'ha adesso. E quel rumore che si sente cos'è? Tic tic. No, non so, il Galaxy dove è tutto, la sua piena non ce l'ha adesso. Pensavo avesse relay, perché l'ho avuto e sentiva sul PTT, sentiva tic tic tic tic. No, invece vedi, l'Elbex ce l'ha, l'Elbex ce l'ha lì, e va molto bene anche l'MB più 5, con l'adattatore del Galaxy va benissimo, li ho provati tutti e due, non cambia niente, però ho dovuto togliere questa bavattura. Io un problema di microfono difettoso, dovevano pensarci da prima, invece hanno funzionato a mettere sempre uguali, e non era mai fregato niente. Antonio, adesso sono con l'MB più 5 con le Galaxy, guarda come va. Va, intanto sembra che stai, boh, come se avessi un filo che tocca e non tocca. Ah, lo sta facendo anche qua adesso? Sì, io sento, là. Eh sì, raschia, c'è qualcosa che non va nel microfono, già, è impossibile che tu un microfono che non va in una radio lo metti in un altro e va, è impossibile. Magari lì lo fa di meno, però nell'altro te lo fa di più. Magari c'è un problema nel capo spinalato, in uno lo fidi di meno, nell'altro lo fidi di più. Oh, il capo spinalato ne l'avevamo cambiato e c'ho quello morbido, lungo, lo posso mettere dove voglio. No, non è il capo, no. La capo sulla se va bene qua, dovrebbe andare bene anche nel lato, quindi non è problema di capo, sono solo andato per esclusione. L'unica cosa può essere il PTT. Oppure guarda, adesso pure va con il potenziometro, ti dico potenziometro, se quello, guarda. Prova a vedere se ha cambiato qualcosa. No, il potenziometro no, del gruppo. Cambia quello, no? Oh già, è quello lì, ma dove c'è anche impastato d'olio, di cosa, prendiamo su tutto e di più Gianni, capito? Secondo me il potenziometro già, perché te ne stai andando anche con questo? Guarda, adesso lo abbasso, lo metto al massimo, guarda se cambia qualche cosa, inizia a raffiare muovendolo. Sai cosa puoi? L'unica cosa che puoi fare è aprire il microfono e posizionarlo e lo lasci sempre al massimo. Se il potenziometro non lo fa più. E si conferma, ma per me è quello lì, perché hai visto tanto come lo muovo, che gracchia e poi sparisce la modulazione. È quello lì già. Ma oh, io ho un microfono a 50 euro, ma per carità, non va nulla a 30. Quei due potenziometri che ci sono, uno per il tono e l'altro per il volume, fanno cagare ancora. Ma ma che il dai, io non ero il 58, ma è capitato di fare un dipolino col 58 e ho dovuto mettere l'adattatore. Oh, manco l'adattatore entrava, che sono PL di merda. Dentro, ho dovuto prendere una rimessa, No, no, ci hanno mondetto, adesso non ti lascio aspettare. Hanno mondetto. Avanti, Antonè. Ehi, aspetta, sono un attimo al telefono, sta arrivando subito. Ehi, vai già. Ehi, sto cambiando il microfono. Comunque, già, fai come sto detto io. Tu lo apri, io lo porto in cielo, quel potenziamo il volume. Una volta che l'hai detto c'è andato, se fa lo stesso problema, vuol dire che non era il potenziamo. Se no, ma fa più un cazzo potenziometro. E farò così, rimetto un capo senza saldare, appoggiato e basta così. E vediamo un po'. Vabbè, sono saldi e meglio. Sì, vabbè, ma non la saldi e poi tocca il po' di saldarlo, invece lo metti in posticcio e già funziona lo stesso. Ma io ti sento anche sciatto, boh. Sì, hai ragione. Sbagliato di due hai. No, era acceso, deve essere da quel di... No, qui sei molto più chiaro. Va molto meglio. Ma mica fa cagare davvero quel potenziometro. Io l'altro giorno a prenderlo, proprio per fare quel lavoro lì, ho rischiato che si staccasse il potenziometro, ho tolto il pomellino da sopra, poi ho sfilato naturalmente tutto il circuito strappato, quei potenziometri hanno quattro piedini che fanno cagare, sono agganciati, piegati, ma perché non sono messi diversamente? E poi non è neanche bloccato, non lo hanno fatto. I vecchi modelli erano migliori, non erano lo stesso neanche loro bloccati. Da salvato però erano fissabili. Questi nuovi fanno proprio cagare. Lo sto dicendo, mi sono spaventato piano piano, perché è proprio appoggiato, poi c'ha queste levettine che stringono il potenziometro. Si imbagli di si stacca tutto, ma fai una cosa fatta bene, ma infatti c'è il primo modello che non è a norma, c'è quello per farti capire con lo strumentino nero, che è una canonata è quello lì. È fatto molto molto meglio di questi nuovi. Vabbè, ciao, ma lo sai com'è che funziona, no? All'inizio fanno cose buone, come le macchine. La prima che compri, tutta quanta bella rifinita, poi iniziano a levare il rivestimento sotto i sedili, perché su questo cambiano quel manicotto, i freni ti prendono davanti alla vita, i dischi davanti ancora e fate una cagata. Che schifo, guarda, veramente che schifo, non so, vabbè, che miscelo, va bene, già, non so cosa ho detto. Per me col microfono non c'è niente, devo rivolere piano piano e vedo che funziona. Vabbè, a cambiare un potenziometro come avevo una laurea. Ho capito, però da cambiare non è che ci vuole la laurea, è da cambiare. Bisogna comprarlo, andare, toglierlo e fare bim bum ba. Vabbè. Ui, ui, ora si è fatta. Sono 7:10, adesso mi devo preparare la roba per domani mattina, devo uscire presto, devo fare questo lavoro a mio cognato, c'ho tutto sul mansarda, però devo andare a scendere tutta l'attrezzatura e fare pulizia in questi nuovi uffici, ho preso degli uffici nuovi in via Livorno, erano bianchinato, hanno invato, quindi domani c'è andare a pulire tutto. E ti tocca. Ehi, io ci sono anche una pulizia, io devo andare per forza, me la chiesto, non c'è, ci devo andare, ma ci sono le pulizie anche. Io mi pulisco i bagni e sono abituato. Pulisco i bagni, mi sono portato un po' le scrivanie, le cose, c'è un po' di... ha fatto portare già un po' di materiale l'ufficio, quindi mi sistema un po' la roba. Perché in via San Francesco, dove c'erano gli uffici, abbiamo venduto finalmente un altro rottura di ballo in meno. Ah, ecco, quindi vi siete trasferiti lì adesso? Sì, lì era una casa di famiglia, no? Praticamente di mio cognato e di mia moglie. C'erano gli uffici della società di mio studio M, di mio cognato, dove appunto sto collaborando, collaboro, eccetera. Venduto, prima abbiamo venduto una parte, adesso hanno venduto anche l'altra. Allora manco, mia moglie è contenta che toccano poco di nano. Beh, falli poco tu di nano. mi dispiace perché è molto bella, quella casa. E quindi gli uffici ha preso in via Livorno. È un bel, c'era un circolo prima, è bello grande, molto grande, già tramezzato tutto, c'era il muratore una settimana, era un po' di butto, pavimenti nuovi, tutto nuovo, fatto. Ha comprato praticamente, hai capito? Non convenni in affitto. come quando a me mi saliva il garage qua vicino, no? Per mettermi la stazione da lavoro, tutte queste cose che tocca magari la campagna da babbo, lasciare la roba lì, ancora la campagna di non ce l'ho per, facciamo andare da babbo, ma mi la fa, mi la porto, ho trovato, stavo cercando un garage in zona, 100 euro al mese, vai, con 9.000 euro mi la giù comparato. Allora, io quando abitavo in via Pascoli non avevo comprato il garage, avevo pagato 10.000 euro, mettevo la moto io, la moto Franco California, c'avevo lo smart, quindi lasciare fuori lì non andava bene, c'avevo io e c'aveva mia figlia, quindi mettevamo due smart dentro, un po' grande, avevo preso lì da Paolo, la pubblica, capite? E poi quando non sono andato via da Pasqua mi ha venduto ragazzi, me ne volte, ne ho posto qua, non ho venduto gli stessi soldi, né più né meno. Infatti io ci ho pensato, ho detto che se gli do 100 euro al mese, mi devo prendere 1.300 euro l'anno. Capo, in 5-6 anni me lo compareggio. 100 euro. A me me l'aveva dato 80, cioè me voleva 130. Perché era grande, molto grande. Capito, molto grande. Proprio lì nel palazzo di fronte dove abitavo io, attraversavo la strada. C'era anche il garage Franco Vivi, non so con niente. E niente, poi me l'ho venduto il grande base. L'ho tenuto per un po' quando sono venuto qua perché c'avevo roba dentro, mobili, cose che c'erano in più di mia socia eccetera, poi ho chiamato il camion di Portobello, si stanno buttando tutto, sbaraccato tutto, la prima pulita, c'era l'acqua e la luce, l'acqua con la bambina, ce l'avevamo le moto noi tutte le domeniche con Franco, quindi c'era tutto, e ho sbaraccato tutto, pulito tutto e l'ho messo in vendita, l'ho dato lì alla Tecnocasa di via Pascoli e me l'ha venduto subito. Perché bisogna fare così, bisogna investire, allora me lo chiedono sempre, dice ma lo vende, sai poi si comprano una macchina nuova, una macchina costosa, in zona ormai non ce ne fermano più garage costruire, intervinenza, anche di poco, no, non vendo nulla, è perché lei macchina non la vende, ma io ho le attrezzature dentro. Allora, io già, no, ma io no, cioè no, vado a 120 euro, poi tramite Paolo, perché veramente era della sorella, dopo la portata, fatto Franco, mi ha detto, ah, tutti lì, lo prendiamo, te lo do io la parte mia, ah, ti vuole, mi dice, ma che due ti pone la moto, no, non ti danno, la verità Franco è stato sempre così, quindi l'ho preso per un pochino in affitto, poi mi si è messo d'accordo, ho detto, me lo vende, e va qui, va là, me lo vende, sì o no, se me lo vende, me lo dica, l'ho preso 10.000 euro, ho preso l'atto, invece l'ho venduto 10.000 euro più l'atto, quindi mi è toccato molto 10.000 euro, tonde. Così, a me 10.000 scelte con l'atto, però questo tanto è poco di pertinenza, pago pochissimo, con lo mio pago solo 5 euro al mese. Beh, da te. A noi da 80 siamo passati a 120, cazzo, a 120, 120 euro al mese economia, poi, grande questo, mi c'è un giardiniere una settimana, mi ha girato la fissura c'è Taiburi, stanno buttando un camion di legna, eucalipto, pino, di tutto, stanno facendo una pulizia allucinante perché c'erano un po' di alberi pericolanti, è venuto l'agronomo del comune, ha fatto le perizie, quindi ha segnato tutti gli alberi che c'erano che in pericolo, quello che c'era sulla stradina, addirittura ne stava sollevando dalle radici tutta la stradina, anche lì non so chi è che paga, comunque li siamo situati noi, e quindi un sacco di soldi dentro la lascia perdere. So che di me era lì a picca in bacchecca e dobbiamo fare la facciata interna, perché, cioè esterna, perché quelle interne sono state fatte. Abbiamo speso un patrimonio, mi ha dissanguato. Adesso si stanno puntando per fare la facciata esterna perché fa schifo. Non ci voglio pensare qua. Io ho speso 1.200 euro la settimana scorsa che hanno cambiato tutto il canale di gronda con i pluviali. Tu, sono 50 metri ma a 40 alto, capito? Sono tre scale, tutte e tre vicine. Non ti dico cosa ci vuole, non ti dico, ho visto un preventivo, mi sono spaventato, capito? Perché due torri, dobbiamo pagare noi, non c'entra niente l'interno. Ogni palazzina si paga le sue, capito? Noi abbiamo speso 59.000 euro per fare la mezza facciata interna, retocchi e balenuari, 60.000 euro, capito? E... però la facciata esterna, devi lavorare con la scala aerea. Con la scala aerea sono 600 euro al giorno. Ma non c'era anche Giulio? No, ha detto che era in ascolto, per quello non ho rinunciato. Gianni, le stai chiamando questo microfono? Gianni, niente, c'è qualcuno che vuole riprendere, entrare? No, non entra nessuno, le stiamo sulle balle. Ma prima non so, Rembatto, forse devo mangiare il cane, che lo so, e intanto mi manco un quarto d'ora, poi io stacco, mi sistemo il cane, poi mi attrito qua in cuccetta e mi guardo la partita, c'è Real Madrid-Inter, me la voglio guardare, ma non tanto Babba e dall'Inter, no, Babba e dando Real Madrid ovviamente Juve, che può essere avversaria della Juve. Uia, un patrimonio, e fortunatamente, no, non c'è problema, per pagarti uno da problemi di là, toccando a segno di gas, perché stare in un condominio così grande è un casino, ogni santo giorno ti tocca la Iana, l'amministratore, ehi, dammi giordi, e la giordi voi, dammi giordi, sempre domande le dinaica. Così, ma anche io ho fatto un po' nei nostri. Sono andato prima a pagare per la sospensione, di nuovo da notaio per l'appartamento. E quello andava a finire, ma non c'è l'appartamento. Davvero, dinai. Così, ma non sai cosa ti ho lasciato a miei soci? Non hai idea tu. Lì ti dicevo, una campagna giù a Caparreddo, di fronte al Cuga. Ma lo sai quanti ettari è? Enorme. Tutta a Olivetto. E infatti ho detto la cosa, perché non la prendete? Cazzo? No, perché c'è il mezzano, mamma e babà hanno ucciso così. Sì, ma poi pure la casa, cioè il mezzano non si è fatto nulla da casa, c'è una casa di 80 metri quadri dove c'è luce, acqua e telefono, fortunatamente è tutto staccato, che loro se ne andavano lì, stavano anche settimane intere nel periodo estivo, perché è molto più fresco lì, no? È proprio dove c'è il Cuga, a Caparreddo si chiama, la zona scendendo praticamente da Iti, la zona vecchia che va a tutti i figari. E poi è Veghiscia, in via Sassari a Itri c'è un'altra casa chiusa che era praticamente del padre di mia suocera, dei genitori di mia suocera, anche quella è chiusa. Provi in aiuto, voi vanno a Matteo con tutti i timo, perché è stato fatto tutta un'altra successione, molti loro proprietari sono 50% mia moglie e 50% mio cognato, non ne vuoi intendere, ma fortunatamente lì via Le San Francesco è riuscito a convincere mia moglie, perché l'anno che l'ho rivido l'imo da bagassi ha sultato. Anche mia nonna aveva delle case di via San Francesco, non era di... Sì, me l'hai detto. No, perché sono ricordi, ma cazzo me la punta mai ricordo, ma fai tutto in dinamica, ma quale ricordo? Ma di qua stai parlando? Se tu consigli quella casa di San Francesco, perché è 200 metri quadri, sono due, il terzo piano praticamente due appartamenti accoppiati, capite? E sono erano 120 quadri, 120 quadri, guarda, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti guardiamo, tutti quanti con lo capello di 18 ancora familiare, che la famiglia non può passare fuori, in fine non ho fatto poi a un ordinare a loro di mia pensa, quindi era familiare, mi piaceva la quando era lui era tutto la cosa, ma non c'è ancora che si può dire che non si via, ma si può dire poi era il tipo che aveva un po' di prima di vedere, poi si può dire qua, ma per un'altra, ma per un'altra, ma per un'altra, ma per un'altra, ma per un'altra, ma per un'altra, quindi simula Andrea e la moglie Paolina. E quelli erano parenti di mia nonna. Cogno, la terra si è caduta. Venga, sentono 5 qua. Scusate, sì Claudio, sei crollato a Santiago 9, io ero all'ascolto. Buonasera a tutti. Rimango all'ascolto. Ciao Marco. Ciao anche a Giulio. Un controllo, me lo date, come sto uscendo? 9.18 per te. Va bene, rimango all'ascolto, eh. No, il microfono mi interessa, la modulazione sta uscendo bene. Bene. Sì, va bene, è buonissimo. Guarda che stai uscendo malissimo Claudio. Santiago 6 mi stai arrivando. Santiago 5-6, è tutto qua rimato. Oh, da me non ha cambiato niente. Ma forse si sente un tiro di schioppo voi due, in linea d'aria. No, caspita, qua è evidente, molto evidente. Modulato 9 più 5 è sceso. Ma era 9 più 5, quasi 9 più 10 è sempre uguale. Perché siete vicini di magari a tu, cosa vuoi che cambi di tra te e voi? Siete tutti e due alla stessa altezza più o meno, per cui e voi, ma qui te lo dicevo, arriva Santiago 5, Santiago 6, tutto qua remato. Infatti stavo aspettando che terminasse il passaggio perché ha fatto un passaggio un pochino lungo proprio per avvisarlo. Chi è che aveva chiesto il controllo? Gianni? Bene qua. Vabbè, io rimango l'ascolto, va. Non ascolto, rimangono, vado. No, io ero distratto, no? Ho buttato l'occhio casualmente sullo smitter, ho visto Claudio Santiago 9, ho detto, bah, l'antenna me ne è scesa. Credo che fosse la mia, ho detto, sicuramente è successo qualcosa su. No, io ripeto, vabbè, non faccio molto affidamento sul strumentino perché è un apparecchio vecchio, però l'ho guardato, riguardato quando aveva detto cosa e lui ha ripreso il segnale, come era prima era adesso, poi ho detto, boh. Quello che non gli stava sentendo così, perché sta facendo passaggi lunghi. Claudio, sicuramente sta cambiando qualche spezzone, qualche spezzone che fa e che viene. Ehi, io ne ho uno l'onfio, l'ho dovuto eliminare, devo comprare spinotti buoni, stavo sentendo anche di... Stavate parlando di PL, sì, certa roba proprio arriva dalla Cina, fatti anche male. C'è filettature fuori standard, no, del PL che non ha vita, ma roba da matti. Ma può essere, cazzo, può essere, già la seconda volta, ma ve lo immaginate, cioè, che un PL possa andare in corto mentre stai parlando, una cosa allucinante, qui ci sono quei PL di merda, amianto. Te l'ho detto, io avevo preso gli altri, ci hanno messo 30 anni ad arrivare, però mi sono arrivati, però sono per il 213, io... c'hanno un riduttore, li ho messi lo stesso, ma ci gira la calza e non ho più le scatole. Sì, ti ho capito, però cioè non si può. Già anche l'altra volta mi è successo. La stessa cosa. È una cosa allucinante. Giulio, bene va adesso. Sì. Sì, ti stavo ascoltando, la radio va benissimo, dunque sicuramente anche il segnale. Prova un attimo, perché ho sdraiato. No, adesso già sta erogando, già va bene. Sì, di nuovo andate in corto, un altro PL. Allora, la giovata pesi, brulisce la mondezza. Allucinante, veramente allucinante. Perfetto. Da me il segnale non è cambiato, adesso ho di nuovo il rimbombo dell'altoparlante, che prima era sparito, infatti ho detto, bah, deve essere che l'altoparlante si è assentato, invece no, mi è riceso più di modulazione. Sì, no, ma me ne sono accorto perché ero al buio e quindi non vedevo lo strumento, E c'avevo anche la T230 spento, quindi no, adesso l'ho acceso per tenere sotto controllo, ma come ho messo a conto subito che era il PL. Va bene, ciao Marco, buonasera.